Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle. Ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle. Scuola e lavoro, che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, gli stili di vita in transizione e l'evoluzione del pensiero, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Crediamo che sia venuto il tempo di abbandonare l'antropocentrismo che ci affligge da secoli e che dobbiamo imboccare una nuova via, immaginando un futuro nel quale la specie umana si confronta e dialoga con tutti gli altri esseri viventi, senza intenzioni di dominio. Siamo persuasi che solo così potremo imboccare seriamente la strada che può farci uscire dalla crisi di sistema, crisi climatica, economica, sociale, bellica, del nostro tempo. Sarà difficile, ma abbiamo il dovere di provarci e nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo. Questa settimana parleremo di carne coltivata e di infrazioni istituzionali, di progetti di eradicazione, cioè di annientamento, in corso in una piccola isola, di antiche tradizioni da superare, di animali in fuga. Sia la colonna sonora, sia la ricetta della settimana sono di Gabriele Palloni, rinomato chef e anche appassionato DJ. La questione della cosiddetta carne coltivata è diventata imprevedibilmente un caso politico-istituzionale piuttosto imbarazzante. Il governo Meloni ha fatto della legge che ne vieta in Italia la produzione e il commercio una bandiera ideologica e propagandistica, arrivando a sfidare la stessa normativa europea. Bruxelles in un prossimo futuro potrebbe bocciare la legge perché contraria alla libertà di commercio in vigore nell'Unione. Si tratta di un caso politico-istituzionale perché il governo, per ottenere dal presidente Mattarella il via libera alla promulgazione della legge, ha dovuto accompagnare il testo a una lettera di impegno ad adeguarsi alle richieste di modifica che dovessero arrivare da Bruxelles. Alla Commissione è stata quindi inviata una informativa sul contenuto della legge approvata. Si tratta di una procedura del tutto inedita. a prima vista una concessione fatta dal Presidente sotto le pressioni del governo, il tutto relegando il Parlamento a un ruolo di comparsa, come hanno fatto notare alcuni costituzionalisti. Del resto, che il governo italiano, punta di diamante delle destre europee, consideri il tema della carne coltivata una bandiera, lo si è visto alla COP28 in corso a Dubai. Giorgia Meloni, nel suo intervento, teoricamente dedicato alle scelte da compiere per ridurre il surriscaldamento globale, quindi le emissioni nocive, il consumo di acqua e suolo, ha svolto una filippica di apparente terzomondismo e di evidente demagogia, arrivando a sostenere che non vogliamo un mondo in cui i ricchi mangiano cibi naturali e i poveri cibi sintetici. Per cibi sintetici, naturalmente, Meloni intende la carne coltivata, per naturali le carni, nonostante i ben noti metodi di produzione, basati sulla privazione per gli animali di tutte le proprie funzioni etologiche naturali, la riproduzione tramite atto sessuale, il nutrimento al pascolo, l'allattamento dei cuccioli, nonché l'uso smodato di medicinali e antibiotici per prevenire le malattie che facilmente si diffonderebbero in quegli affollati inferni contemporanei chiamati allevamenti, nei quali gli animali sono costretti a vivere le loro brevi e tristissime esistenze. È stato facile per gli addetti ai lavori e le associazioni animaliste e ambientaliste mettere in luce le acrobazie logiche, anzi illogiche, della Presidente del Consiglio, una leader politica che gioca anche con le parole. Usa l'espressione carne sintetica invece che coltivata per dare un'accezione negativa al prodotto. Proprio lei che pretende di farsi chiamare il Presidente del Consiglio, con esiti spesso grotteschi, come quando i giornali amici si trovano a fare titoli del tipo «Il Presidente del Consiglio», due punti, «sono grata a questo e quello». Fra le tante valutazioni negative del discorso di Meloni a Dubai, prendiamo quelle dell'associazione animalista OIPA, che ha avuto buon gioco a far notare, trattandosi oltretutto di un consesso sulla lotta al collasso climatico in corso, che la produzione di carne coltivata genererebbe emissioni di gas serra inferiori fino al 96% rispetto alla carne prodotta convenzionalmente, con il minore impiego di energia in una misura che va dal 7 al 45%. La legge sulla carne coltivata, dice OIPA, è divisiva, ideologica e fuori dal tempo. In Italia, aggiunge l'associazione, la carne coltivata ancora non c'è. E qualora arrivasse il via libera dell'ente europeo preposto alle autorizzazioni per i nuovi cibi, non farebbe altro che mettere in condizione i consumatori italiani di acquistare il prodotto altrove, dove la ricerca cruelty free nel frattempo va avanti. A me non piace niente, non mi piace nessuno, queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono, sei andato via non ti sei perso niente, questa bocca a volte non mi crede, vuole la fame e la sete, queste mani mi consolano. Più volte a Restiamo Animali abbiamo parlato dell'isola toscana del Giglio e dei mufloni che vi abitano. Gli animali sono entrati da tempo nel mirino dell'ente parco perché considerati alloctoni e nocivi, pericolosi per la biodiversità, una biodiversità intesa evidentemente in modo statico e perciò stesso problematica. Negli ultimi tempi l'ente parco sta attuando la prevista campagna di eradicazione del muflone, cioè l'eliminazione fisica di tutti gli esemplari rimasti, nonostante gli appelli e le azioni di contrasto messe in atto da numerose associazioni. Il caso è arrivato anche in Parlamento, con una interpellanza del deputato verde Angelo Bonelli, secondo il quale, leggiamo dal testo della sua richiesta al ministro, contrariamente all'affermazione dell'ente parco, studi genetici recenti hanno smentito la considerazione di tali animali come ibrido nocivo, confermando la loro appartenenza a una specie protetta e la purezza della loro tassonomia. Perciò, sostiene in sostanza Bonelli, l'eradicazione non dovrebbe aver luogo. Abbiamo chiesto un contributo sul tema a Kim Bizzarri, naturalista e attivista che segue la vicenda dell'isola del Giglio fin dall'inizio. Vi aggiorno sulla questione del muflone del Giglio. Hanno iniziato ad abbattere i mufloni nonostante l'accordo preso tra l'ente parco e le associazioni animaliste nell'ottobre del 2021, in cui il parco si impegnava a cambiare le disposizioni del progetto LIFE di eradicazione, non più eradicazione tramite abbattimento, ma eradicazione tramite catture e traslocazioni dei mufloni in vari santuari in Italia. Questo era un accordo stipulato dal parco, ovviamente a nome dei beneficiari del progetto LIFE, di cui fa parte anche la Regione Toscana. La Regione Toscana è un partner formale del progetto. Quello che è successo già l'anno scorso, la Regione Toscana aveva emesso una delibera per permettere la caccia al muflone al Giglio e in risposta una serie di attivisti hanno passato lì tutto l'inverno facendo da scudo e nessun muflone è stato abbattuto. Nel frattempo è uscito uno studio genetico su una delle riviste scientifiche più importanti di genetica, la rivista Diversity, in cui uno studio condotto da un consorzio di centri di studi genetici sia in Italia che in Francia hanno concluso che il muflone del Giglio presenta delle caratteristiche genetiche fenotipiche pure e ormai uniche, perché altrove il muflone, anche se protetto come in Sardegna, in Corsica e in Cipro, si è riprodotto con la pecora domestica, dando vita quindi ad un incrocio che ha perso il patrimonio genetico del muflone sardo. Quindi il muflone del Giglio, che fu importato al Giglio negli anni 50 proprio perché esibiva queste caratteristiche così pure, tramite un progetto di ripopolamento della specie, il muflone del Giglio quindi rappresenta un alto valore scientifico e la sua perdita rappresenterebbe una grave perdita e danno alla biodiversità. Quindi sembra inverosimile che un progetto europeo con fondi europei destinati alla preservazione della biodiversità vengono invece utilizzati per minarla. Nonostante questo studio scientifico, la Regione Toscana quest'anno ha emesso una seconda delibera nel mese di agosto, in cui, rifacendosi agli emendamenti della caccia selvaggia, permette ai cacciatori di andare al Giglio e cacciare tutti i mufloni, senza restrizioni di numero, di sesso o di età. Quindi quello che è successo nelle ultime due settimane, una serie di cacciatori sono stati visti sull'isola sparare ai mufloni. Sappiamo che hanno ucciso un piccolo all'interno del fondo chiuso, dove una gran parte dei mufloni ancora viveva, e poi un numero indistinto di altri mufloni. Quindi al momento ci sono degli attivisti che a turno restano sull'isola, cercano di documentare la caccia selvaggia contro il muflone. Abbiamo dunque proceduto con una diffida verso la Regione Toscana, chiedendogli di intervenire e di revocare immediatamente la delibera di caccia. Non abbiamo avuto nessuna risposta da parte sua, quindi questa settimana partiremo con una denuncia per disastro ambientale. Nel frattempo abbiamo fatto anche un ricorso speciale al Presidente della Repubblica, Mattarella, chiedendogli appunto di intervenire sulla base di tutti i punti che ho già elencato per fermare la mattanza e preservare quindi questo patrimonio genetico. Il parco ha recentemente dichiarato che da qui a breve comincerà anche l'eradicazione dei 400 mufloni e dei 2000 cinghiali presenti sull'isola d'Elba e che il costo di questa operazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Quindi nuovamente soldi dei contribuenti destinati alla preservazione della biodiversità che invece finiscono sempre per uccidere gli animali. E quello che forse è sfuggito al momento all'interno del dibattito sulla questione del muflone è che con il muflone, così con tante altre specie considerate alloctone invasive e quindi da eradicare, questi progetti mirati alla biodiversità sembrano sempre concludere che la soluzione per la preservazione della biodiversità sia la caccia. In un recente incontro ministeriale a Bruxelles, il ministro Lollobrigida ha presentato l'agricoltore e il cacciatore come le figure migliori a sostenere e preservare la biodiversità. Quindi questo dovrebbe essere un richiamo d'allarme per tutti, perché la richiesta di Lollobrigida, supportata poi dalla maggioranza del Consiglio dei Ministri europei, è stato quello di chiedere la riapertura della direttiva Habitat, che dal 1992 è il capisaldo di tutta la regolamentazione europea sull'ambiente e gli animali. Il momento in cui riaprono il dossier, riaprono la direttiva, è possibile dunque poi vedere annullare o cancellare o annacquare moltissime delle protezioni legali di cui beneficia al momento l'ambiente e gli animali. Dritto in testa e lo sguardo pugno a letto se ne va. Monta in trave, aspetta il varco, chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, che cascato sa. Una gordana, una prusciata, che il tuo corpo non ci prova più. Parliamo del Palio di Siena, una manifestazione folcloristica locale divenuta inopinatamente uno spettacolo televisivo. Nonostante nessuno, in Italia, esclusi ovviamente gli abitanti della città di Siena, sia in grado di percepire le differenze esistenti fra una contrada e l'altra e quindi apprezzare il significato e la vittoria di uno o di un altro dei concorrenti. Per noi il Palio è innanzitutto una manifestazione crudele che mette a repentaglio la salute psichica e fisica dei cavalli in nome di un divertimento anacronistico, oltre che ormai assai diverso anche dalle sue origini. Per quanto gli attuali campioni di questa competizione, una corsa così esasperata da costringere gli animali a prestazioni impossibili e nocive per la loro salute, si richiamino proprio alla tradizione per giustificare le sofferenze inflitte ai cavalli. Parliamo del Palio di Siena perché l'associazione OIPA ha annunciato che presenterà un accesso agli atti al Ministero della Cultura per conoscere l'avanzamento dell'iter per la qualificazione del palio come patrimonio culturale della nazione. All'origine di questo intervento c'è il fatto che un fotografo professionista è stato inviato in città dal ministero, come annunciato dal rettore del magistrato delle contrade di Siena, Emanuele Squarci, per fare un sopralluogo propedeutico allo scatto delle immagini ufficiali degli oggetti che ciascuna contrada ha proposto come rappresentativi della propria essenza, il tutto appunto in vista della qualificazione del palio come patrimonio culturale del nostro paese. OIPA chiede quindi al Ministero di evitare che sia dato tale riconoscimento alla competizione, in nome del rispetto degli animali. Secondo OIPA appare inappropriato rendere patrimonio culturale una manifestazione che mette a rischio la vita di animali, esseri senzienti, tutelati ora anche dall'articolo 9 della Costituzione. Occorre ricordare, dice l'associazione, che nel 2018 la competizione causò la morte di Raoul, cavallo simbolo delle vittime del palio, e appena lo scorso agosto si sono infortunati Abba Santesa e Antindei, cavalli che hanno dovuto subire un ricovero in una clinica veterinaria dove sono stati operati per le fratture riportate. Basta pali, basta quintane, basta giostre con l'uso di animali su piste inidonee, dice il presidente di OIPA, Massimo Comparotto. Sono tornei anacronistici che non hanno più ragione d'essere in un'epoca in cui cresce e si consolida una sensibilità, sostenuta anche dagli orientamenti giuridici e giurisprudenziali, che non vuole usi e abusi sugli animali. La redazione di Restiamo Animali si unisce a queste considerazioni. La tradizione, per quanto ci riguarda, non è buona di per sé, tutt'altro, e superarla, in questo caso, sarebbe un atto di giustizia e di rispetto per le vite altrui. second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. You just don't argue anymore. A proposito di tradizioni anacronistiche, una notizia tristissima arriva dal Piemonte, riportata dal quotidiano La Stampa. Una carrozza turistica, trainata da un cavallo e condotta da un cocchiere, leggiamo dal quotidiano, è stata tamponata da un'auto. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 228 del lago di Viverone. Nello scontro, la carrozza è carambolata fuori dalla strada. Il cocchiere ha riportato ferite medicate dal 118 ed è stato trasferito in ospedale a Ivrea. Il cavallo è invece rimasto gravemente ferito e il veterinario dell'azienda sanitaria locale, dopo aver valutato le sue condizioni, ha optato per l'abbattimento. Troppo gravi, a suo giudizio, le ferite riportate agli arti. È rimasto illeso invece il giovane a bordo dell'auto. Si tratta di una notizia per noi sconcertante. Al pensiero di cavalli costretti a correre sull'asfalto, trascinando antiquate carrozze per consentire a dei turisti di immergersi in una falsissima esperienza autentica, come vengono chiamate queste passeggiate nel gergo del turismo industriale. Anche in questo caso, come per il palio, le vittime designate sono i cavalli, sottoposti in città a pressioni pressoché insopportabili, nella confusione del traffico e sul respingente suolo coperto d'asfalto. Per non parlare delle torride d'estate che ormai colpiscono con regolarità le città italiane. È da tempo in corso una campagna, sostenuta da tutte le associazioni animaliste, per ottenere il divieto delle carrozze trainate da cavalli, le cosiddette botticelle. Ma il mondo politico ha finora chiuso occhi e orecchie. You say you think we need to go to war, well you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion. Il quotidiano Il Messaggero ha riferito la notizia con ironia e cogliendo l'occasione per criticare la mala gestione della città che sarebbe invasa dalle bestie. Ma il caso della grande capra fuggita dal cosiddetto bioparco di Roma, un modo gentile per definire uno zoo appena un po' rinnovato, ci riporta a tante storie di cui abbiamo riferito a Restiamo Animali, di prigionieri che rompono le catene e cercano un po' di libertà. Sono azioni che potremmo tranquillamente definire disperate, perché fuori dalle gabbie e dai recinti gli animali fuggiaschi trovano un mondo inospitale quasi quanto zoo, parchi, bioparchi, circhi, ma sono azioni sulle quali dobbiamo riflettere. Gli animali vengono inseguiti, minacciati, sedati e riportati in prigione, ma i loro gesti non possono essere equivocati. L'ansia di libertà muove ogni essere vivente privato della possibilità di muoversi e di agire secondo le proprie attitudini di specie. Quindi c'è poco da ridere e da ironizzare se una delle 10 Himalayan Tar, le capre himalayane, rinchiuse nel bioparco di Roma, riesce a superare i recinti e correre sul viale del giardino zoologico. La strada evidentemente ha mantenuto il nome originario, senza edulcorazioni, e ad affacciarsi su Villa Borghese da un muro alto 4 metri, all'altezza del Parco dei Daini. Nel frattempo, mentre questo avveniva, ovviamente, era già scattato l'allarme. Qualcuno pensava di aver visto un antilope, qualcun altro più correttamente ha gridato al caprone, e sono stati allertati polizia e carabinieri a cavallo, così riferisce il Messaggero. Il caprone alla fine è tornato mestamente sui suoi passi a fare compagnia ai suoi colleghi di detenzione, nella triste recinzione del bioparco, uno dei tanti luoghi di inutile prigionia per animali ancora esistenti nel nostro paese. Al caprone fuggiasco dedica la ricetta della settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore di alcuni libri di cucina non violenta, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Se vogliamo dedicare una ricetta omaggiando i fuggiaschi, invece di fare 30, facciamo 31 e dedichiamone una ai detenuti di ogni specie. E lo facciamo con una ricetta tipica pistoiese, come al solito reinterpretata e privata da ogni crudeltà. La zuppa del carcerato. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di funghi cardoncello, 200 g di pane raffermo, una cipolla, una carota, una costa di sedano, un pomodorino o un cucchiaio di passata, un cucchiaio di lievito alimentare, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Pulite i funghi cardoncello, tagliate a strisce il cappello e sfilacciate il gambo, quindi fate scottare il tutto per 10 minuti in acqua leggermente salata. Scolate e nel brodo di cottura aggiungete mezza carota, mezza costa di sedano e metà cipolla. Unite un filo d'olio extravergine, il pomodorino o la passata di pomodoro e lasciate a fiamma bassa per una ventina di minuti, quindi togliete dal fuoco e lasciate le verdure all'interno. A parte tritate il resto di carota, sedano e cipolla, fate rosolare in 2 cucchiai di olio extravergine, unite i funghi e dopo qualche minuto 2 ramaioli di brodo e lasciate cuocere a fuoco lento per 15 minuti. Rimuovete solamente i funghi, se qualche pezzetto rimarrà nella pentola meglio. Adagiate le fette di pane raffermo e coprite col brodo, lasciando cuocere fino a quando il pane si sarà ben ammorbidito, insaporito e sfaldato. Aggiustate col sale e pepe nero. Infine disponete il pane in piatti fondi, coprite con i funghi, spolverate con il lievito alimentare e irrorate col brodo bollente. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.